Napoli, Napoli, cresciuto che pippate cucai, Napoli, quanti una casa fanno all'eroi, Napoli, a scuola non ci sono mai potuti, Napoli, cucciuri al rindo tosti, Napoli, affiliata rinda con fami, Napoli, o guerna c'era sulla polizia, Napoli, e signora porna sta più tranquilla, Napoli, nessuno più lo scippo purzolì, Napoli, i ben pensanti votano DC, Napoli, i camurristi votano così, Napoli, e si chielota votano così, Napoli, ma mezza vi continuano a morire, Napoli, ma tenimmo solo pizio mandolina, tarantella, canzone solo e mandolino, a Napoli se mora tara luce e fino a Napoli, na, na, na, na, Napoli, a 25 mezzoli, Napoli, Napoli, Napoli, abbandonata, da tutti disprezzata, Magnelli c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, banca scassata, famiglie disgregate, a Torino, Milano, napoletana, terrone ignorante, magnato sapone, lavato con l'idrante, tornate in casa, felice e contenta, c'è fatta fe maliarda e non ne ha avuto niente, però sinceramente, dico sinceramente, dopo la metà, piena macchina patente, ma rindo parlamenta, c'è tenendo sempre a mente, rindo parlamenta, non si scordano mai. Se scordano ad esempio coordinamento, caccia spatta sempre a faccia i problemi della gente, allora immediatamente, dico immediatamente, mannano in proda con una cricche malamente, giunto da Roma somma tutte nubiezza, coppa bravattura va poi a un coppa munnezza, giunto da Roma somma tutte nubiezza, giunto da Roma ed è venuto a Napoli, na na na na na Napoli. Napoli.